Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. E c'è un pigmento che in questa stagione è davvero prezioso, è un potente antiossidante che ha a cuore la salute dei nostri occhi. Si chiama luteina e c'è chi l'ha ribattezzata l'occhiale da sole naturale. In linea con noi la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno a tutti voi. Allora, noi non siamo in grado di produrla da soli, dobbiamo assumere la luteina attraverso la dieta, quindi andiamo a cercarla, professoressa, dove la troviamo? Perfetto, la luteina non può essere sintetizzata dal nostro organismo, ma deve essere obbligatoriamente assunta con gli alimenti. La troviamo in quantità abbondante nel tuorlo dell'uovo, negli spinaci, nelle foglie di rapa, nel crescione, nella bieta. E guardate, bastano 50 grammi al giorno degli alimenti che ho citato, soprattutto gli alimenti vegetali, che corrispondono a un'assunzione di circa 7-8 mg di luteina per garantirci la quantità necessaria per proteggere la nostra retina dalle radiazioni ultraviolette nocive. E un altro eccellente integratore dell'occhio, potremmo proprio chiamarlo così, è la zeaxantina, un altro pigmento giallo che si trova negli stessi identici alimenti che sono ricchi di luteina. E degli esperimenti hanno mostrato che l'effetto della supplementazione giornaliera di soli 5 mg di luteina o zeaxantina riescono a prevenire l'affaticamento della vista nei video terminalisti. Tutti noi usiamo ormai computer quotidianamente, sono il nostro mezzo di lavoro, e l'acuità visiva correlata ai livelli di assunzione di luteina risulta nettamente migliorata se ne assumiamo delle quantità elevate. Quindi 50 grammi al giorno di questi vegetali sono sufficienti a proteggere i nostri occhi dall'insorgenza di disturbi visivi nell'età più avanzate, ma anche dall'uso del computer che mi causa quello che tutti conosciamo come affaticamento della vista. Quindi se usi il computer mangia gli spinaci, ma anche surgelati, professoressa Creglia? Anche congelati, perché le moderne tecniche di congelamento e surgelamento soprattutto garantiscono in pieno le proprietà nutrizionali degli alimenti. Quindi un buon surgelato può essere tranquillamente utilizzato. Professoressa Creglia, grazie per essere stata con noi, ci sentiamo prestissimo e buona giornata, buoni spinaci anche a lei. Grazie a voi, buoni spinaci a tutti. Buongiorno. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai. Ci sono persone che sono molto sensibili alla luce, sono quelle che in questa stagione già dal mattino escono con gli occhiali da sole, se non li indossano avvertono una serie di disturbi che vanno dal rossore alla lacrimazione, devono strizzare gli occhi. C'è chi invece non ha alcun problema e gli occhiali non li indossa o al massimo lo fa più per vezzo che per necessità. Ne parliamo oggi con il dottor Luciano Buratto, che è tornato a trovarci, buongiorno, che è qui in studio con me. Buongiorno. Direttore del Centro Oftalmico di Milano, un centro altamente specializzato nel trattamento chirurgico della cataratta e dei difetti visivi. Dottor Buratto, imitando i suoi colleghi dermatologi che ogni anno ci invitano a proteggere la pelle dal sole, ci aiuti un po' a capire perché proteggere i nostri occhi anche in assenza di disturbi ci fa bene, ci invogli, insomma raccontandoci i vantaggi che possiamo avere nel breve, nel medio e nel lungo periodo, proteggendoli. Beh, la luce forte del sole contiene molte radiazioni che possono essere potenzialmente tossiche per l'occhio, in particolare radiazioni UVA, proteggendo quindi l'occhio con occhiali appropriati che abbiano appunto protezione contro radiazioni ultraviolette, di fatto l'occhio viene protetto sia contro la cataratta, sia contro l'insorgenza di maculopatia, sia contro altre patologie e anche contro comunque le irritazioni fastidiose che fanno diventare l'occhio rosso evitato. Lei, dottore, ha citato delle patologie oculari che possono essere causate da una non adeguata protezione? Insomma, diciamo che possono essere favorite da una non adeguata protezione, che comunque magari insorgono lo stesso, magari in tempi più lunghi o comunque in fasi più avanzate della vita della persona. La pelle si arrossa, scotta, ci avverte che il sole le sta dando fastidio. Purtroppo gli occhi non dicono nulla, ad alcune persone con gli occhi sensibili avvertono un fastidio, un rossore, una lacrimazione, ma ci sono persone che la luce la sopportano benissimo. Anche per queste persone è necessario, in questa stagione in modo particolare, quando la luce diventa più forte, più intensa, le giornate si allungano, devono sempre comunque indossare gli occhiali da sole? Eh sì, perché c'è comunque un effetto di accumulo di queste radiazioni, bene o male fanno qualche cosa di negativo, anche perché l'occhio è diventato un po' più delicato, perché ormai siamo tutti abituati a vivere più all'interno di ambienti chiusi, quindi di ambienti protetti, quindi quando andiamo fuori l'occhio ne risente di più di conseguenze di una illuminazione esagerata. È un po' come la nostra pelle, siamo abituati, abbiamo un po' perso l'abitudine, il piacere di stare all'aria aperta, e quando ci esponiamo per la prima volta al sole ci scottiamo. Allora, il programma, care amiche, cari amici, oggi si fa ricco. Proviamo a fare un breve sommario dei temi che toccheremo insieme al dottor Buratto. Inizieremo dalla scelta dell'occhiale da sole. Lei, dottore, ci aiuterà a scegliere la lente giusta, anche il colore forse. Poi raccomandazioni a proposito di lenti, a che porta le lenti a contatto, ma ci occuperemo con particolare attenzione anche e soprattutto di chi soffre di alcune patologie oculari che si riacutizzano, si aggravano proprio con la luce. Intanto, per non sapere né leggere né scrivere, diteci se e come i vostri occhi vedono l'estate. Che effetto fa l'estate alla vostra vista? Ti prendono così e ci fanno ragionare. Dottor Buratto, occhi che sanno parlare, in effetti i nostri occhi parlano. Dicono tanto. E dicono delle cose che noi spesso trascuriamo, delle cose che ci allarmano inutilmente. Vogliamo così orientarci, vederci più chiaro? Beh, intanto l'occhio è un mezzo di comunicazione importantissimo, oltre che un mezzo di lavoro molto utilizzato. Cosa facciamo senza la vista, senza gli occhi? Quindi noi dobbiamo proteggere i nostri occhi perché ci aiutano in tutti i momenti della giornata. Quindi proteggerli dalla luce del sole, nutrirli bene, come diceva la professoressa prima, e comunque proteggerli anche dall'iperlavoro e proteggerli dall'esposizione di agenti tossici o comunque esterni, tipo l'aria, tipo il fumo, tipo gli ambienti chimici, tipo il vento, tipo le polveri, tipo il sole anche, che effettivamente è un elemento molto fastidioso. Adesso poi, che è il periodo di vacanze, dobbiamo stare un pochino attenti all'acqua di mare, dobbiamo stare attenti alla sabbia, dobbiamo stare attenti ad altri agenti potenzialmente fastidiosi per l'occhio. Insomma, è pieno di insidie. L'occhiale è una bella protezione, protegge dalla luce, è anche un oggetto bello da portare per la persona ed è comunque un fattore di protezione molto importante per l'occhio, sia per il colore sia per la lente. Allora, diamo qualche regola, indicazione per acquistare, per indossare l'occhiale giusto, di qualità, che sia in grado di proteggere adeguatamente i nostri occhi, perché noi sappiamo che ci sono delle radiazioni particolari che lo offendono più di altre. Intanto bisogna distinguere se uno ha problemi di vista, allora in questo caso occorre una buona prescrizione, diciamo, del medico, quindi portare la lente appropriata facilita molto il riposo dell'occhio e il buon lavoro dell'occhio. Per quanto riguarda la protezione dalle radiazioni, le lenti, diciamo, vendute attualmente dovrebbero essere tutte a protezione dalle radiazioni ultraviolette, quindi dovrebbero avere tutte il marchio CE, che assicura una protezione superiore al 90% delle radiazioni ultraviolette, e questo dovrebbe essere già una cosa molto facile da ottenere. Poi c'è l'altro problema della luminanza, della luce in eccesso, diciamo, che può dare fastidio. Questa è un'altra cosa diversa, diciamo, dalle radiazioni ultraviolette. Cioè l'occhio è sensibile nei confronti della luce e quindi va protetto con una lente colorata. Diciamo che il miope preferisce tendenzialmente una lente che va sul bruno, comunque sul marrone o colori di questo genere, mentre l'ipermetrope preferisce colori che vanno sul verde, ma comunque poi in realtà ognuno si sceglie il colore Quindi non c'è con questa cui sta differenza, ogni meglio. tanto si legge il miope, deve scegliere di questo colore, lì No, per... ognuno guarda diciamo e che la capisce. persona si sceglie il suo occhiale poi alla fine, sono tutti protettivi comunque. Diamo anche un'indicazione per chi è spesso alla guida. Il programma è seguito, mi scrivono anche persone che sono in viaggio per lavoro, sono camionisti, taxisti. Allora, per chi passa ore e ore alla guida. Io ho scritto un bel libro sull'occhio e guida un po' di tempo fa. È molto interessante che sono mille problemi dell'occhio a guida. Innanzitutto bisogna avere cose semplici, tipo il lenti di cristallo che funziona bene, avere il cristallo ben pulito, avere gli occhiali appropriati. Soprattutto se si portano occhiali, per esempio, polarizzati, ed abbiamo un cristallo, diciamo, della macchina polarizzato, e subentrano delle interferenze e quindi non va bene. Poi bisogna stare attenti alle illuminazioni che provengono dall'esterno, tipo le luci delle macchine, specialmente di notte, e quindi avere un occhiale in questo senso. Occorre stare attenti a utilizzare, diciamo, la vista in maniera appropriata, nel senso di essere in una buona posizione col corpo, con gli occhi, con la testa. Occorre proteggersi comunque da quelli che sono E ci anche sono gli. delle lenti più suggerite, particolari? No, diciamo che anche in questo senso una buona lente di buona qualità è sufficiente per dare una buona. L'importante è che sia corretto bene il difetto visivo, se ce n'è uno, perché tendenzialmente chi porta l'occhiale in macchina è più che altro perché ha un difetto visivo. Però gli occhiali da sole dividono. Vuole sentire che cosa mi scrivono le mie ascoltatrici? Un bel paio di occhiali da sole e la nebbia mi fa un baffo. Li userei anche la notte, mi scrive Tina. Alessandra invece da Pisa mi scrive: ho gli occhi chiari, per anni sono stata schiava degli occhiali da sole, senza non riuscivo a stare con gli occhi aperti finché non mi sono stufata e li ho abbandonati e sono rinata. La luce del sole non mi dà più fastidio, porto gli occhiali soltanto al mare dove sono essenziali. Vede? Il mondo si Sono divide. due cose un pochino diverse. Diciamo che la sensibilità alla luce può essere protetta con una lente colorata oppure con una lente che ha appunto protezione contro i raggi ultravioletti. Una cosa è diversa, diciamo, se invece uno ha l'occhio sensibile in sé. Perché ci sono delle persone che hanno gli occhi molto delicati, tendenzialmente gli occhi chiari sono chiari proprio perché sono poco esposti alla luce del sole, generalmente. Infatti, popolazioni che vivono in climi molto, molto soleggiati hanno gli occhi più scuri perché proteggono meglio, diciamo, dalla luce del sole, dalla luce ambientale. Chiari o scuri, sensibili o più forti? Francesco, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ospiti e ascoltatori. Grazie, Ma io Francesco. anch'io ho abbandonato gli occhiali da sole da un paio d'anni. Sono in macchina molte ore al giorno e mi godo i colori dell'estate. È chiaro, se vado al mare metto gli occhiali da sole, però forse è più una questione di abitudine, nel senso che l'occhio poi si abitua, le palpebre fanno il loro lavoro, che si abbassano e si alzano, Sì. e mi trovo molto molto bene. Sì, volevo capire, problemi alla vista non ne ho, volevo capire se a lungo andare questo poteva portare delle problematiche. Non guardo il sole comunque, nel senso che... Beh, certo, Francesco, anche perché quando noi diciamo mettete gli occhiali da sole, ma uno li mette già dal mattino, deve vivere con gli occhiali da sole o li mette quando No. avverte un fastidio? Anche questo, le ore fanno un po' la differenza. Diciamo quando c'è un sole forte, quando c'è un'esposizione Francesco aumentata. però è un po' della serie di Alessandra da Pisa, insomma si gode. dei colori dell'estate. Sì, dobbiamo tenere presente che comunque la macchina è già un ambiente protetto, perché comunque già all'interno della macchina ne entra meno luce di quanto non ne entri in un ambiente esterno. Sì. Poi comunque il cristallo, io lo chiamo cristallo, ma chiamiamolo come vogliamo, insomma è comunque protettivo perché ha dei filtri, quindi anche questo filtra. Poi ci sono i filtri naturali, uno strizza le palpebre proprio per proteggersi, poi di giorno la pupilla si restringe proprio per far entrare meno luce all'interno dell'occhio, mentre si dilata la sera per farne entrare di più quando c'è meno luce. Quindi ci sono già dei meccanismi, diciamo, naturali. Quindi non mi stupisce che una persona possa stare tranquillamente senza occhiali in macchina o anche in ambienti esterni, purché non ci sia una luminanza eccessiva. Ecco. Lorenzo dalla provincia di Brescia e poi Corrado. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Io lei... come Francesco non sopporto gli occhiali da sole. Perché poi scendono, questo... vanno giù, sì, no, vero? Poi, questo bisogna... però non è il mio problema. Bisogna precisare che gli occhiali da sole proteggono in due maniere. Uno può essere, l'occhiale può essere anche chiaro, ma il materiale della lente protegge comunque dalle radiazioni tossiche della luce solare o di altre luci, cioè le radiazioni ultraviolette. La luce, la parte colorata dell'occhiale è quello che toglie il fastidio della luce, ma protegge poco. Probabilmente per questo. Lorenzo. Però il mio problema era un altro. Era, io da un po' di tempo vedo una macchiolina nell'occhio sinistro, che quando mi pulsa il cuore vedo quella macchiolina. Che si muove. Cioè, pulsa il cuore, arriva la macchiolina? Che si muove la macchiolina. Trasparente ma opaca. Trasparente ma opaca. E beh, ma diciamo il tipico corpo mobile nel vitro, che è una cosa molto frequente, diciamo sopra i 45-50 anni, il liquido interno dell'occhio si, diciamo, trasforma un pochino, si modifica, diventa più mobile, diventa più fluido, e quindi piccole opacità all'interno dell'occhio si muovono. Un disturbo molto comune ma non pericoloso. Fastidioso ma non pericoloso. Oppure è una cosa da non preoccuparsi? No, se non ci sono lampi, se non ci sono flash, se non ci sono altri sintomi, direi assolutamente perché tranquillo. Perché va a tempo con il cuore? Beh, questa perché ci sono le pulsazioni comunque dei vasi sanguigni all'interno dell'occhio. Professore, lei che ha scritto anche un libro su alimentazione e salute degli occhi, per questi queste mosche, questi corpi mobili, serpentelli che molti ascoltatori ogni volta che parliamo di occhi ci ricordano, c'è qualche modo per prevenirli o per limitarli, per evitare che il problema si aggravi? Diciamo che ci sono due fattori che possiamo mettere in azione. Uno è l'alimentazione, sì, dal punto di vista vitamine, cioè mangiare tanta frutta, tanta verdura, questo senz'altro aiuta molto. Perché ci sono alcune vitamine più di altre che possono, aiutano, ad esempio... Diciamo quelle delle parti colorate della frutta e della verdura che contengono. Quindi beta-carotene. E poi bere molto, molto liquido, molta acqua in particolare, per sostituire, diciamo, per migliorare il ciclo di ricambio dell'occhio. Andiamo a Verona, c'è Corrado, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Allora, intanto occhiali da sole tutta la vita, magari anche polarizzati. Però io volevo chiedere un'altra cosa al, sì, professore. Da qualche tempo guardo ad esempio lo schermo dello smartphone in camera la sera, quando lo smetto l'occhio destro mi resta meno luminoso, vedo tutto praticamente al buio nero per alcuni minuti e poi torna normale. Se accendo la luce lo vedo rispetto all'altro occhio marrognolo. Volevo capire cosa poteva essere. Perché anche lo smartphone ha una luce, non è la luce del sole, è una luce che è una luce che viene studiata in modo particolare, soprattutto in questo periodo, perché siamo tutti esposti alla luce di smartphone e tutti e questi compagnia. Strumenti di alta tecnologia moderna, chiamiamola così, hanno comunque un'emissione di radiazioni blu in particolare. Infatti adesso sono state messe in commercio delle lenti quasi specifiche per l'uso dei computer, per l'uso dei smartphone, eccetera. Poi c'è di fatto l'altro elemento. Ma lei che le consiglia? Cioè, se uno usa tanto, va, sì, e ci sono delle lenti, cioè ci sono degli occhiali con delle lenti proprio speciali, per il, sì, per il PC. Sì. Ci sono. Anche per chi non ha difetti di vista? Anche perché non ha difetti di vista. Va bene. Corrado, lei lo sapeva? Sì, lo sapevo, però volevo cercare di capire se aveva un consiglio su cosa può essere al di là dell'uso degli occhiali. Stavo appunto completando il discorso che questi aggeggi microscopici affaticano molto l'occhio, perché tutto quello che c'è scritto è abbastanza piccolo in generale, specialmente i cellulari, si fa fatica, quindi l'occhio deve mettere a fuoco, deve fare un lavoro, diciamo, di lettura non facile. e anche perché poi di solito questi strumenti vengono usati abbastanza a lungo, quindi specialmente se uno ha più di 40 anni per cui l'occhio ha perso un po' di elasticità, è facile che ci sia affaticamento, bisognerebbe utilizzare un occhiale da vista per queste cose effettivamente, solo che magari per un uso così di breve, di pochi minuti, uno non lo fa. Serve anche fare un po' di ginnastica oculare? Bisognerebbe però farla tutti i giorni con la regolarità, allora aiuta un pochino. Sì, certo. Ci dà qualche indicazione che così noi... Beh, sono degli esercizi di messa a fuoco sostanzialmente, sì. Cioè guardare lontano e vicino e poi bisognerebbe focalizzare bene un po' la cosa meglio. Cioè abituare l'occhio a una certa elasticità di lavoro in pratica. Quindi si guarda lontano, poi si ritorna vicino, è un po' come lo stretching che consigliano i fisiatri e tutte le persone, tutti gli esperti che si occupano di muscolatura, articolazione, di muoverci un po'. Essere e benessere. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Se la luce ci dà fastidio, strizziamo gli occhi, se non vediamo bene, strizziamo gli occhi. In questo modo i nostri occhi si attrezzano, diciamo così, ad affrontare la situazione. Ma strizzare gli occhi può anche farci bene. In linea con noi abbiamo il professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale dell'Università di Lugano. Buongiorno professore, bentornato. Ma buongiorno a voi tutti. Splendida giornata a tutti. Splendida giornata e possiamo anche strizzare gli occhi per stare meglio, non per rispondere magari ad un insulto o per in qualche modo cercare di vedere meglio. Ma c'è un esercizio effettivamente che possiamo consigliare, proprio strizzando gli occhi, che può far bene alla cervicale. Ve lo descrivo? Sì. Ok, benissimo. Allora, preparatevi. Mettiamo le mani dietro la nuca, dita incrociate, ben salda la nuca. Portiamo in avanti, stiriamo un pochino la testa, chiniamo il capo in avanti, e mentre stiriamo la testa con le mani, strizziamo fortissimo, fortissimo gli occhi, facendo un'espressione come se avessimo un dolore fortissimo piuttosto che uno sforzo forte. Contiamo sino a 5. Poi di colpo molliamo tutti i muscoli per un secondo, ancora strizziamo forte tirando il collo, contando fino a 5. Lo facciamo per 3 volte. Per un attimo vi girerà un po' la testa. Nel giro di pochi secondi sentirete un sollievo notevole al vostro collo. Sentirete proprio il collo leggero, libero, libero, libero. Quindi se la cervicale ti fa male, strizza l'occhiolino, strizza i due occhietti. Sì. Strizza l'occhio alla cervicale. Ma professor Di Pietro, invece però anche gli occhi possiamo anche tenerli aperti per rilassare in qualche modo la nostra muscolatura con un prossimo esercizio. Esercizio con occhi aperti, allora, va bene? Volentieri. Andiamo. Allora, questo farà un po' sorridere chi vi ha di fronte. Se lo fate in macchina, mi raccomando, accostate un attimo, ok, per farlo. Benissimo. Allora, sono 3 fasi brevissime. In una fase ci rilassiamo, guardiamo verso l'orizzonte, portiamo il dito indice della mano destra il più lontano possibile da noi, all'altezza dei nostri occhi, e poi, come facevamo da piccoli, un piccolo gioco, quello che fa un po' ridere perché avvicina gli occhi verso il centro, verso il naso, avviciniamo il dito osservandolo con tutti e 2 gli occhi, fino a far convergere tantissimo gli occhi. A quel punto, di colpo, togliamo il dito. Prima fase. Seconda fase, rifacciamo la stessa cosa, ma coprendo a turno gli occhi. Con la mano sinistra, copriamo l'occhio sinistro, con l'occhio aperto, avviciniamo il dito dell'altra mano, si intende. Quando siamo a pochi centimetri, togliamo la mano che copriva l'occhio e cerchiamo il dito anche con l'altro occhio. Questa è una sorta di ginnastica oculare. Qua il professor Di Pietro in studio con me, ho il dottor Buratto, oculista, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico. Chi meglio di Milano. Lui. E quindi, dottor Buratto, questo esercizio che ci propone il professor Di Pietro, che ha il vantaggio di sciogliere la muscolatura, vero professore? Sì. ha anche il vantaggio di fare quella famosa ginnastica oculare che lei suggeriva e che si consiglia soprattutto alle persone che lavorano davanti al PC e rischiano di ammiccare poco e quindi si ritrovano poi il problema dell'occhio secco di cui è rosso, di cui parleremo. Professor Di Pietro, quindi occhi strizzati per la cervicale, sì. dito davanti, sì, al naso per... Sì, prendete il dito, mettetelo il più lontano possibile, avvicinatelo piano piano e con gli occhi seguite il dito. Quando il dito sarà proprio vicino al nostro volto, i muscoli oculari devono per forza imparare a convergere. Il fatto di farlo poi alternativamente con un occhio e l'altro è per dare anche velocità a questi spostamenti, a questi muscoli. Ed è molto molto importante, so che gli oculisti lo consigliano molto e fanno benissimo, soprattutto quando ci sono delle forie, esoforie, ma sono cose che magari il professore sa molto meglio di me. Che sono, professore, lei che sa? Sono piccole deviazioni verso l'interno o verso l'esterno degli occhi che in pratica fanno un po' fatica a restare diritti, quindi tendono a convergere un pochino di più oppure a divergere un pochino di più di una condizione naturale. Quindi questi esercizi che sono accomodazione e convergenza sono estremamente utili effettivamente per rilassare gli occhi ma anche per irrobustirli nella loro funzione, anche di lavoro binoculare. Fanno ginnastica. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi, buona grazie giornata. Ma buona giornata a tutti voi. Grazie. Tanto, professore, buongiorno. Alice da Facebook, ciao. Volevo sapere se chi porta gli occhiali da vista da miope e vuole indossare gli occhiali da sole, anche se non sono graduati, li può indossare per poco tempo, 10-15 minuti, oppure fanno male. Ci scrive. No, male non fa, no? Però no, ci vede, no, poco. Poi. Che può essere anche, no? Un attimo, magari vede un po' sfocato e che potrebbe avere anche il suo bello, no? Diciamo che sarebbe in questi casi qui, perché ci sono le condizioni ideali, sarebbe meglio farsi operare col laser, così toglie gli occhiali e li mette solo quando ha voglia di metterli. Ecco, a proposito, ma è sempre il tempo, c'è sempre una stagione per operare o ci sono stagioni più indicate di altri? No, tutte le stagioni sono buone per migliorare la propria vista. Ma... risposta perfetta. però professore, mi faccio operare, sì, poi esco e ho tutto questo sole che non è, no, meglio un giorno o due, poi quindi l'estate non è controindicata, no, se ma uno... abbiamo pazienti che si fanno operare quando sono in Africa, quando sono in Asia, quando sono in Texas dove ci sono 40 gradi tutta l'estate, oppure pazienti che si fanno operare d'inverno in paesi molto freddi. Quindi come non è una controindicazione. No, la temperatura no. Giuliano, buongiorno, da Perugia. Sono Grazio e a Nicoletta, buongiorno. Grazie, buongiorno. Io sono Giuliano e sono un architetto di 62 anni, miope di 7 diottrie. Avevo chiesto in preascolto, io porto costantemente lenti a contatto un 6Z di gradazione corretta, in cui c'è scritto anche nella scatola che sono forniti di un filtro UV. Oltre a questo io porto quasi sempre delle lenti di ottima marca, color ambrate che mi servono per quasi la parabrezza, perché ormai sono stato abituato da tanti anni ad avere qualcosa davanti agli occhi e vedo che anche come contrasto durante la guida è molto migliore rispetto a una lente di colore verde. Poi volevo chiedere se è possibile una piccola cosa veloce. A me capita, raramente ma qualche volta avviene, una cosa che credo si chiami aura visiva, cioè io senza nessun dolore, senza nessuna, vedo all'inizio in maniera totalmente simmetrica in ambedue gli occhi, delle parti molto più chiare al centro, a forma di zigzag, che mi durano 20 minuti di orologio, piano piano vanno verso l'esterno del campo visivo e poi si allontanano, cioè la vengono dolore, a trovare e si allontanano. Sì, si allontanano e Giuliano, durano esattamente 20 minuti. È tutto, e grazie. Ascolto il radio. Grazie, dottor Buratto. Premesso che il suo utilizzo delle lenti a contatto degli occhiali è veramente ottimale, quindi continui pure senz'altro così. Promosso. Okay, sotto questo punto di vista, questi disturbi spesso si accompagnano poi ad altri disturbi tipo mal di testa o cose di questo genere. Di solito sono elementi dovuti a squilibri vascolari. Teniamo presente che l'occhio è al termine di una circolazione endocranica che qualche volta può avere qualche piccola scompenso, qualche piccola difficoltà, per cui si formano dei disturbi di questo genere. Di solito bisogna far controllare appunto la pressione sanguigna e tutto il resto, fare magari un eco Doppler Doppler vedere, per misurare la circolazione a livello del cranio. Lei si è complimentato con Giuliano perché usa correttamente le lenti a contatto. Invece ci sono persone che le usano ma un po' se le dimenticano o ne abusano. Quali sono le indicazioni che dobbiamo ricordare per utilizzare le lenti a contatto in tutta sicurezza? Estate, molte persone le usano, oltre che per un problema, per un fattore estetico, anche per la praticità. Ricordate che se usate le lenti a contatto non dovete o dovete? Beh, intanto bisogna evitare tutti gli agenti che possono essere irritanti, dalle polveri ai fumi, al vento, all'aria, all'aria condizionata per esempio. Anche. Quindi in ufficio, secondo lei, io non dovrei mettere le lenti a contatto? No, in ufficio lei le può mettere, basta che si abitui ad ammiccare con una certa frequenza e comunque può benissimo mettere qualche goccia di lacrime artificiale monodose che lubrifica l'occhio, bagna la lente a contatto, lo tiene protetto, lo tiene in buona forma, lo tiene in grado di lavorare bene. Al mare, in montagna, in piscina, tre situazioni diverse, tre raccomandazioni mirate per i nostri ascoltatori che decidono in estate di buttare gli occhiali alle ortiche. Dunque, in piscina è più semplice perché basta mettere un occhialino, l'acqua della piscina non è sempre pulita e comunque contiene parecchi conservanti che se vanno a contatto dell'occhio irritano. In montagna c'è molta radiazione ultravioletta, quindi un buon occhiale da sole è più che sufficiente. Il mare diventa un pochino più complesso perché le situazioni sono più miste, più varie. C'è l'acqua del mare che con la sua salsedine e tutti i suoi comunque elementi irritanti interni, microbi eccetera eccetera, può irritare gli occhi. C'è la sabbia che può dare fastidio, c'è il vento che dà fastidio, c'è la luce del sole che comunque irrita gli occhi. Le lenti a contatto vanno quindi, diciamo, usate con particolare cautela, quindi un paio di occhiali da sole davanti è senz'altro utile, delle lenti, delle lacrime artificiali monodose, torno ancora sull'argomento, sono molto utili e comunque un po' di precauzione da parte dell'utilizzatore. Le mani, lavarsi le mani. Evitare di strofinarsi, evitare di toccarsi gli occhi in continuazione, anche perché l'utilizzatore di lenti a contatto tende purtroppo ad abusarne, siccome sono lenti in generale che funzionano molto bene, danno molta soddisfazione visiva, molto conforto, molto equilibrio, eccetera, uno tende a portarle più di quanto dovrebbe e quindi l'occhio dopo un po', diciamo, si stanca di questa situazione, diciamo in termini semplici, e si infiamma, si arrossa, comincia a avere difetti lacrimali, per cui poi la lente a contatto diventa anche faticosa da portare e quindi poi bisogna sospenderla e quindi passare o all'occhiale o alla chirurgia refrattiva, eccetera. Se la tua è una delle facce dell'amore, aiutami tu regalandomi per il mio compleanno gli occhiali dell'amore. E io ti guarderò con gli occhiali dell'amore e ti vedrò attraverso le lenti dell'amore. Massimo da Cremona e Livio dalla provincia di Reggio Emilia. Buongiorno. Eccomi. Allora, io sono miope, ho gli occhi castani, però io senza occhiali da sole non riesco a vivere. Guido molto, perché io guido molto, e a differenza di quello che mi è stato detto, adoro molto gli occhiali con le lenti grigio-verdi che scuriscono un attimino di più rispetto al marrone. E quando li tolgo anche in spiaggia comincia il bruciore degli occhi, quindi uso dei colliri alla camomilla per rinfrescarli. Quindi volevo sapere dal dottore se continuando a usare occhiali molto scuri l'occhio si assuefatto, quindi il fastidio aumenta quando li tolgo, e se questi colliri, diciamo, rinfrescanti alla camomilla possono andare bene. Ecco, questo. Grazie Massimo, che così mi dai il là per il gancio per il collirio. Dottor Buratto. Che il colore molto scuro va bene durante il giorno, va un po' meno bene di sera quando c'è meno luce, perché l'occhio deve ricevere più luce durante le ore in cui ce n'è poca, per cui la lente scura forse in questa sensazione va un po' meno bene. Ma poi l'occhio, se si abitua ad essere così sempre protetto, non è che diventa poi ancora più sensibile? Questa è un po' la domanda che ritorna. Ci sono delle esigenze singole delle varie persone che possono avere necessità diverse, voglio dire, sono delle persone che sono occhi più sensibili perché non proteggono, sono persone che hanno l'occhio meno sensibile possono essere meno protette, diciamo, quindi avere più libertà di azione, se vogliamo. Essere e benessere. SOS Casa, parliamo oggi dei piccoli infortuni che ci possono capitare dentro le mura domestiche,